Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. E questa era la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21.30. Ricordo che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E andremo, come già detto, fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con l'ascolto di questa band storica inglese dei primi anni 80. Loro sono i Broken Bones, dal loro album datato 1984 che si intitolava Them Bones. We'll be right back. Ciao a tutti, anche da parte nostra, da questa parte del vetro, Zardins Magnetics, giovedì 26 giugno, sono le 20:15, qui negli studi di Via Volturno a Radio Onde Furlane a Udine. Solo rubo un po' di spazio alla musica per dire che stasera parleremo dell'Iran nella prima parte, di così leggeremo qualche voce, qualche informazione che arriva da là, e nella seconda parte invece cose che riguardano il carcere, e poi vedremo, insomma, ancora un po' di musica. Build the wave, build the waves, build the wave. Ecco, allora siamo qui, iniziamo questo contributo, diciamo, in voce di stasera. Avevo pensato, visto tutte le cose che sono successe in questi giorni a livello, diciamo, di contesto grande, ecco, che tutti, immagino, a tutti sarà arrivato qualcosa, cioè l'aggressione di Israele all'Iran, alla Repubblica Islamica, e poi l'intervento degli Stati Uniti. In merito a questo volevamo così prendere parola e con qualche considerazione e con, come dicevo prima, appunto, qualche voce che arriva da laggiù e che ci riporta tante volte, magari può capitare che ci si lascia trascinare dagli eventi, dalle emotività, così anche dagli stereotipi, e si arriva anche con degli automatismi a schierarsi in una maniera a ben vedere, così, che va forse messa sotto critica. Allora, prendendo spunto da un incontro che si è svolto al Conchetta a Milano questo sabato, quando appunto doveva ancora scattare l'attacco, un bombardamento così degli Stati Uniti di Trump, e successivo diciamo provvisorio, appunto, cessate il fuoco. Prendendo spunto da quell'incontro messo in piedi dal centro di documentazione sulla guerra, centro di documentazione contro la guerra, di cui trovate il blog, con dei materiali, appunto, dove appunto li ho trovati anch'io. Ecco, il discorso da riportare un attimo in carreggiata un po' tutto è questo, no? Allora è successo che è scoppiata questa questo momento di guerriglia della resistenza, del fronte della resistenza palestinese, il 7 ottobre, no? Il diluvio di Al-Aqsa. Quindi hanno rotto appunto l'assedio che li condannava a una prigione a cielo aperto, e hanno attaccato, appunto, mirando, prendendo di mira quello che trovavano, i colonizzatori delle loro terre, eccetera eccetera, e poi è seguito tutto quello che in questi due anni, appunto, andiamo raccontando, i massacri, i genocidi, eccetera, da parte dello Stato, no, israeliano. In tutto questo anche noi ci siamo schierati con appunto col fronte della resistenza, no? Con dei distinguo, insomma, nel senso che la nostra, ne abbiamo parlato altre volte, quella che ci sembra cui aderiamo meglio, posizione, oppure insomma prospettiva, ecco, è quella che è stata condensata nel numero unico, La tempesta, l'imprevisto palestinese nella guerra globale, appunto, marzo 2024, già un anno e passa fa, dove appunto si diceva come molte prospettive, cioè molte delle formule che erano rimaste, insomma, che erano trascinate dai decenni precedenti, insomma, due stati, due popoli, disarmo, appunto, cessate il fuoco da entrambe le parti, eccetera, erano cose non più sostenibili, dicevano i compagni In un contesto come questo, il sostegno a un campo in guerra, gli oppressi palestinesi attraverso l'attacco contro l'altro, lo Stato di Israele e i suoi padrini, che sono anche i nostri diretti oppressori, ci pare non un contributo, ma un antidoto all'allargamento del conflitto. Se il colonialismo di insediamento non è un evento ma una struttura che opera finché non raggiunge il proprio fine, la questione palestinese può avere solo due soluzioni: o l'eliminazione dei nativi da un lato, o la fine della struttura stessa, cioè dello Stato colonialista israeliano e tutta l'architettura e sistema coloniale dall'altro. Mentre sarebbe sconcio abbandonare i palestinesi al loro destino in nome della pace, quale e di chi, dubitiamo fortemente che ce ne siano le condizioni. In un contesto come questo, il sostegno a un campo in guerra, gli oppressi palestinesi, attraverso, ecco appunto il pezzo che vi ho letto prima, se non faremo la nostra parte con l'azione internazionalista dal basso, l'iniziativa non potrà che passare agli stati, quindi, no? Da sempre avamposto dell'imperialismo occidentale, Israele ne viene foraggiato esattamente per questo motivo e scopo. E senza il foraggiamento collettivo dell'Occidente, Israele non durerebbe a lungo. Se questo è vero, come è vero, allora solo una profonda crisi sociale, ovvero una rivolta generalizzata all'interno dei diversi paesi occidentali, potrebbe portare Israele a retrocedere. È in questa direzione che dobbiamo spingere, quella direzione si badi bene, che la classe dirigente di casa nostra teme fin dall'indomani del 7 ottobre. Per quale motivo lo Stato tedesco e quello francese hanno represso fin dall'inizio con la massima durezza tutte le manifestazioni di solidarietà alla Palestina e per quale motivo viceversa in Italia le manifestazioni sono state consentite? Il timore è stato fin dall'inizio quello di una sollevazione delle masse arabe e islamiche all'interno dei paesi occidentali e di una loro possibile saldatura col malcontento dei bianchi. Ok, questa era la prospettiva, no, che noi seguiamo. Il contesto però si è andato generalizzando uscendo da Gaza, appunto perché in seguito Israele ha preso l'iniziativa. Nel luglio 24 addirittura ha eliminato uno dei comandanti di Hamas, Haniyeh, che si trovava in Iran, cioè con le sue forze, con i suoi apparati è riuscito a localizzare la posizione di questo comandante, portarsi sul territorio e eliminarlo. Questo tra l'altro significa qualcosa di molto, insomma, ha dei risvolti che vedremo dopo. E nel settembre 2024 Israele ha sterminato i capi e i quadri di Hezbollah nel Libano col famoso attacco con i cercapersone, se vi ricordate. Quindi ha preso l'iniziativa, poi ha fatto improvvisamente è caduto il regime di Assad in Siria, quindi hanno preso anche lì il potere certe forze, insomma, tra virgolette pacificatrici, insomma non nemiche degli Stati Uniti, paradossalmente. Ecco, e a questo punto ha immediatamente attaccato ha cominciato a bombardare l'Iran e poi è intervenuto anche Trump. Allora, tutto questo per dire, io direi che ci fermiamo un attimo e continuiamo dopo il prossimo brano. fumo, per dire che stiamo ascoltando magari un po' un metodo insolito oggi, questo death metal, thrash metal, comunque loro sono i Morbid Angel. E niente, stavamo parlando dell'Iran, o meglio, stavamo arrivando all'Iran, no? Sto facendo un ragionamento a ritroso. Allora, abbiamo ricostruito gli attacchi, insomma, l'escalation, dai, cosiddetta, di Israele verso la Repubblica Islamica. In realtà, dietro le, cioè, il risvolto di questo è che l'Iran, a partire dagli anni, diciamo, dagli anni 2000, 2006, agli anni 10, eccetera, andando, insomma, sorvolando su varie cose che sono successe nel cosiddetto Medio Oriente o Asia occidentale, che dir si voglia, l'Iran ha cercato di espandere la sua influenza. Nel senso che alla fine l'Iraq nel 2011 gli americani se ne sono andati e ha preso, diciamo, possesso l'Iran, ha preso l'egemonia, la potenza più vicina è diventata l'Iran. Dall'Iraq alla Siria, dove appunto si è dissolto a un certo punto il potere di Assad e è andata avanti il califfato, per poi sgretolarsi appunto completamente lo Stato, e adesso c'è quel, diciamo così, uno del califfato un po' più riformista. E lo stesso, insomma, appunto ha sostenuto il Hezbollah in Libano e ha, per non dire, insomma, che anche l'Iran sostiene Hamas, movimento islamico di resistenza, tradotto in italiano. Comunque i loro nemici, cosiddetti, insomma, giurati, Israele e gli Stati Uniti, hanno appunto battezzato tutto questa tendenza a espandersi dell'Iran, l'asse del terrore. Ecco, la lettura che dobbiamo fare noi, secondo me, come oppressi, come sfruttati, come quello che siamo appunto, come classe, come proletari, è questa. Il Medio Oriente è una regione dove la classe più numerosa, la base sociale delle società, è il proletariato, è fatta di sfruttati, di salariati, e non sono, diciamo, virgolette, operai specializzati dell'industria, eccetera, sono nella maggior parte appunto dei lavoratori miseri, che hanno dei salari bassissimi e che però sono costretti a vendere la loro forza lavoro, e sono milioni. e sono sotto questi regimi autoritari come Turchia, come appunto Iran, come Egitto, per non parlare appunto dell'Egitto che è un vulcano sociale, no? Abbiamo visto appunto con le primavere arabe cosa è successo, come è stato represso quel momento, ma anche lo stesso Israele e la stessa Palestina, dove ci sono anche lavoratori immigrati. È una realtà appunto dove è in atto una guerra, che è una guerra contro la classe. Quelli che appunto sono riusciti a... Sì, l'obiettivo di tutte queste... di questi eventi che succedono, stanno succedendo in questi anni in quella regione, sono elementi di appunto che possono essere ricostruiti come una guerra di terrorizzazione, questa guerra delle masse. E questa guerra è sia appunto messa in piedi sicuramente da Israele, che non è solo il braccio armato degli Stati Uniti, è una potenza controrivoluzionaria Israele. Sì, è dove arriva appunto, deve arrivare il terrore di questi sfruttati, di questi miseri, non devono appunto avere spiragli di sperare in un possibile cambiamento. E allo stesso tempo anche da queste realtà statali appunto di egemoniche, fatte di pochi, diciamo, funzionari, dirigenti o del potere religioso, del potere statale che sia, che comunque tengono sotto il loro appunto tallone di ferro questa forza lavoro e cercano di schiacciarla in tutti i modi, e hanno paura che si rivolti, soprattutto come si diceva prima leggendo dalla tempesta. Questo è il quadro, ecco, non dimentichiamo mai che non è un problema appunto di schierarsi con quelli appunto che ci sono più simpatici, ma è un problema che coinvolge anche noi, come siamo noi, come insomma la nostra identità, diciamo, ma può essere anche la nostra collocazione appunto di classe. Ecco, adesso io andrei a leggere qualche contributo e metteremo anche, insomma, cercheremo di fare anche delle pause di brani in mezzo. Ecco, questo è anche qua, andiamo a ritroso, ci sono qualche articolo che pensavo io di leggere insieme a voi. Il primo è datato 24 giugno, lunedì, quindi scorso. Cosa significa il cessate il fuoco per la lotta di classe? Ed è scritto dal collettivo Slingers Collective, un collettivo appunto internazionale fatto anche di compagni iraniani. Dispacci dalla guerra numero 7. Poche ore fa Donald Trump, come un padre autoritario, ha dichiarato un cessate il fuoco che Israele ha ufficialmente accettato e l'Iran ha informalmente riconosciuto. Tuttavia questo non significa la fine della guerra. La guarnigione coloniale occidentale nella regione, nota come Israele, ha immediatamente accusato l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con uno scenario familiare, come aveva fatto in precedenza per il Libano, e ha annunciato che avrebbero continuato i suoi attacchi. L'Iran a sua volta ha minacciato una risposta forte in caso di aggressione israeliana. Finora sembra che la questione si sia conclusa con un attacco simbolico, una struttura radar nei pressi di Bab el-Sar, a cui l'Iran ha dichiarato che non risponderà. A prescindere dagli eventi odierni, questa situazione potrebbe riflettere l'intero stato delle cose tra Israele e Repubblica Islamica nei prossimi mesi e forse anni, dove la possibilità di una guerra come quella degli ultimi giorni potrebbe emergere in qualsiasi momento. Come abbiamo visto chiaramente nel caso del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano, Israele non ha mai cessato la sua aggressione contro il Libano nei giorni successivi al cessate il fuoco. Anche durante la guerra con l'Iran, nonostante Hezbollah abbia ripetutamente dichiarato di non volere intraprendere alcuna azione in difesa della Repubblica Islamica, Israele ha assassinato diversi suoi quadri nel sud del Libano. sebbene questioni significative come il fatto che in Libano Hezbollah è un'organizzazione politica non governativa, attualmente sotto pressione da parte del governo e dell'esercito libanese, mentre in Iran la Repubblica Islamica detiene il potere dello Stato, introducano alcune differenze nei dettagli della situazione, la logica generale che governa la nozione di cessate il fuoco non sembra essere altro che questa, cioè come appunto il fatto che Israele non ha mai cessato la sua aggressione contro il Libano e quindi neanche contro l'Iran. D'altra parte, la Repubblica Islamica cercherà ora di ricostruire il suo fronte interno. Negli ultimi giorni i riformisti affiliati al governo, precedentemente espulsi dal campo della gestione governativa, sono stati invitati sulle piattaforme della propaganda ufficiale come simboli della riconciliazione nazionale. L'impennata del sentimento nazionalista patriottico e il discorso «Viva l'Iran» offrono alla Repubblica Islamica anche l'opportunità di utilizzare questa voce unitaria per stabilizzare alcune questioni interne, almeno nel medio termine. Paradossalmente, però, questa stessa atmosfera nazionalista, nella sua logica continuità, servirà anche da piattaforma per le forze monarchiche, come avvenuto negli anni precedenti. La controparte materiale di questa riconciliazione nazionale è stata articolata da Qais Qaraishi, un analista politico favorito dalla sinistra, favorevole all'asse della resistenza, in una sessione organizzata dalla Yedaal TV per giustificare la mancata risposta dell'Iran agli attacchi militari statunitensi. Ha detto: oggi il sistema di governo non crollerà di certo al suo interno, non dovrà sicuramente affrontare una guerra civile, perché oggi ci vuole un vero uomo per entrare in Iran e cercare di sabotare qualcosa. La società lo farebbe a pezzi. Credetemi, l'80% della società è di questo parere. Mentre prima un atto del genere poteva essere considerato audace dell'opinione pubblica, e con i danni degli ultimi anni, le spaccature emerse tra la società e lo Stato hanno limitato significativamente la libertà d'azione del regime. Finita la citazione. E naturalmente l'evocazione di termini come sabotatore e sabotaggio dal vocabolario della SAVAK, la polizia dello Shah, polizia segreta, non è affatto casuale o fuori luogo. Secondo le informazioni disponibili, dall'inizio della guerra a oggi le agenzie di sicurezza della Repubblica Islamica hanno arrestato 705 persone, molte delle quali non sono ancora note. Tuttavia ci sono segnali che dovrebbero destare la nostra preoccupazione. Ad esempio, pochi giorni fa il Ministero dell'Intelligence ha annunciato lo smantellamento di una rete israeliana ben organizzata a Yasui. Nel descrivere le attività di questa rete è stato dichiarato che i suoi membri si erano procurati armi e si erano divisi compiti in varie città della provincia di Koghiluye e di Boyer Ahmad. A quale scopo? Per distribuire volantini, pubblicazioni clandestine, graffiti, eccetera, al fine di effettuare operazioni di sabotaggio e di disturbo. Queste affermazioni contraddittorie, soprattutto se affiancate ad altri rapporti in cui si afferma che alcuni degli arrestati sono persone che hanno svolto ruoli di direzione nelle proteste del 2022, suggeriscono segni di una più ampia repressione con il pretesto delle condizioni di guerra. Inoltre, tra i 705 arrestati conosciamo almeno il nome di Hossein Mrbahari, membro della Società per la difesa dei bambini lavoratori e di strada e attivista di lunga data per i diritti dei bambini. È stato arrestato sabato 21 giugno e portato in una località sconosciuta. Nel frattempo, secondo quanto riferito dai nostri compagni all'interno dell'Iran, la gestione sociale della Repubblica Islamica è stata in gran parte interrotta durante i giorni di guerra. Infatti, in molte stazioni di polizia di Teheran il personale professionale era assente e le responsabilità erano state affidate a pochi soldati di leva. Inoltre, la Repubblica Islamica utilizzerà lo shock della guerra per attuare in modo più brutale tutti i piani delle sue politiche neoliberiste, che sono in parte portate avanti in coordinamento con le istituzioni imperialiste internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Come è già successo nei giorni scorsi, l'unico risultato dello sciopero dei camionisti, la cancellazione dell'aumento del prezzo del diesel, è stato a sua volta annullato. Negli ultimi anni la Repubblica Islamica ha dimostrato che pur facendo marcia indietro o concessioni su alcune questioni, non arretra mai quando si tratta di politiche economiche di classe. Coglie ogni occasione per imporre con la violenza queste politiche, e quale occasione migliore se non lo shock delle condizioni di guerra? Pertanto le forze rivoluzionarie devono prepararsi a continuare la lotta in queste condizioni, un cessate il fuoco instabile che potrebbe trasformarsi in guerra in qualsiasi momento, un comportamento sempre più feroce da parte delle forze di sicurezza della Repubblica Islamica, giustificato con continui riferimenti a condizioni di guerra e a cospirazioni di nemici stranieri. L'attuazione intransigente di politiche economiche e di classe che distruggeranno ulteriormente la possibilità di resistenza per la classe operaia, i poveri delle città e gli emarginati, e le celebrazioni nazionaliste e patriottiche di una forza sociale la cui base di classe è la classe media, una classe che ha ripetutamente svolto un ruolo reazionario e degenerato in tutte le brusche svolte storiche degli ultimi anni, che oggi sta nuovamente svolgendo lo stesso ruolo. Ci aspettano giorni difficili in cui la lotta di classe emancipatrice e il recupero delle potenzialità perdute devono essere portati avanti in modi più nascosti, vigili, aggressivi e organizzati. Appunto, collettivo iraniano Slingers. La firma un po', adesso ci fermiamo. Sì, ci siamo. E andiamo avanti ancora un po' con questo discorso sull'Iran. Andiamo adesso, passiamo invece, facciamo un salto all'indietro, all'11 settembre. Queste parole che vi leggeremo insieme adesso sono di Mansour Hekmat, un compagno appunto così della corrente consigliarista del marxismo, che le ha scritte nel novembre, appunto, successivo agli attacchi alle Torri Gemelle, novembre 2001, e ecco, si chiamava Il mondo dopo l'11 settembre. Due campi reazionari. L'11 settembre 2001, questo spaventoso crimine contro l'umanità, questo massacro di migliaia di vite umane in America, ha spinto il mondo sull'orlo di uno dei più tetri e sanguinari periodi dell'età contemporanea. Ciò che l'amministrazione americana chiama guerra internazionale al terrorismo è in realtà l'ingresso del mondo in una nuova e distruttiva fase di guerra internazionale tra terrorismi. Ai poli opposti di questo conflitto sanguinario stanno due maggiori soggetti del campo del terrorismo internazionale che hanno lasciato il loro marchio sanguinario sulle vite di due generazioni. Da un lato si trova il più grande macchinario di terrorismo di Stato, intimidazione internazionale e ricatto. Questo campo comprende il governo statunitense e i suoi gruppi dirigenti, le uniche forze al mondo che hanno usato armi nucleari su popolazioni inermi, riducendo in pochi secondi centinaia di migliaia di persone innocenti e ignare in polvere a Hiroshima e Nagasaki. Uno Stato che ha massacrato milioni di persone in Vietnam e per anni ha razziato e distrutto il loro paese con bombardamenti chimici. Comprende la NATO e le coalizioni occidentali che dall'Iraq alla Jugoslavia hanno distrutto le case della gente, le scuole e gli ospedali e hanno privato del pane e delle medicine milioni di bambini. Include la borghesia e lo Stato israeliano. Loro occupano, massacrano, assediano, saccheggiano, bombardano i campi dei rifugiati e sparano su bambini di 10 anni che cercano riparo tra le braccia paterne o ai cancelli delle scuole. Da Hiroshima al Vietnam, da Grenada all'Iraq, dai campi di sterminio in Indonesia al Cile, ai mattatoi della Palestina, la fedina penale di questo polo internazionale di terrorismo di Stato e intimidazione imperialista è evidente e irrefutabile, è visibile al mondo intero. Dall'altro lato c'è il terrorismo islamico e la politica reazionaria e vile dell'Islam. Queste forze, una volta create e nutrite dall'America e dall'Occidente durante la Guerra Fredda, come mezzi di organizzazione della reazione interna contro la sinistra nella società medio orientale, ora sono diventate un polo attivo di terrorismo internazionale che si contende la lotta per il potere borghese in Medio Oriente. La storia criminale dell'Islam politico, dall'Iran all'Afghanistan al Pakistan, dall'Algeria alla Palestina, include una lunga lista di genocidi e crimini spaventosi, dagli omicidi di Stato sponsorizzati dallo Stato in Iran e Afghanistan, ai crimini quotidiani dei gruppi terroristi islamici in Israele, Algeria e nel cuore dell'Europa e dell'America, dalla sanguinosa repressione degli oppositori politici e intellettuali all'imposizione di leggi islamiche reazionarie e inumane sulle persone, in particolare sulle donne, dalle decapitazioni e dalle mutilazioni islamiche e agli attentati in bus, nei bar e nelle discoteche. Queste sono le migliori imprese di questi reazionari. Ora questo conflitto porterà via centinaia di migliaia e probabilmente milioni di ulteriori vittime in Afghanistan domani, in un altro lato del mondo dopodomani. Questo deve essere impedito. Il movimento umanitario per la pace non è la giusta risposta alla situazione attuale, ma l'influenza di questo movimento, specialmente fra la gente comune nelle società occidentali, a causa della fede della gente nella non violenza, nell'umanità e del loro spontaneo senso di cautela, è assai diffusa. Questa posizione condanna l'intervento degli USA nell'Afghanistan, ma sfugge la responsabilità di combattere il governo dei talebani. Condanna il razzismo e l'incitamento contro i musulmani, ma non vede alcun motivo per esercitare pressione sugli USA e su Israele in difesa del popolo di Palestina. Questa posizione desidera il successo di Jack Straw in viaggio per l'Iran, in modo da poter eventualmente addomesticare e pacificare questo polo del terrorismo islamico, malgrado il fatto che questa politica rafforzi la morsa di questi lupi sulla gente in Iran. Questa posizione difende i diritti civili dei musulmani nei paesi europei, ma per impedire tensioni rifiuta e si oppone alla critica del velo e della mancanza di diritti delle donne nell'Islam e nelle comunità islamiche. Questa posizione fa appello a tutti per recedere e lasciare la situazione come era prima. Se questo movimento dominerà le menti e le azioni delle persone scontente, allora l'umanità civilizzata affiderà questo periodo ai terroristi occidentali e orientali. Se ci deve essere un futuro, è nella formazione di una politica attiva, progressiva e amante della libertà, in prima linea delle file popolari. Questo è il dovere dei comunisti. nuovi comunisti, comunisti di Marx. Questo è il nostro compito. Allora, gli slogan e le proteste di tutte le persone oneste del mondo principalmente si sono focalizzate su ristabilire lo status quo, che si fermi l'attacco degli Stati Uniti all'Afghanistan o che si ritorni alla situazione precedente all'11 settembre. Questa è un'umanità che non ha speranza per un futuro migliore. Nel migliore dei casi vuole la calma. Desidera evitare le bombe, la guerra e la violenza. Un'umanità che, malgrado la si immagini quotidianamente ingenua, confusa e docile, conosce la natura efferata e brutale dei mostri che sono entrati in guerra, l'Islam politico e il militarismo USA. Un'umanità che desidera semplicemente evitare la catastrofe imminente a ogni costo. La politica che domina l'ampio spettro di forze che si oppongono alla guerra, e questo include i reliti dei marginali gruppi di sinistra in Europa che prima dell'11 settembre non si sarebbero messi d'accordo su niente se non sulla rivoluzione mondiale, è invocare la calma, tentare di fermare le tendenze attuali e di ritornare a prima dell'11 settembre. Il pacifismo è la tendenza dominante nel movimento di resistenza, e questa è una politica estremamente nociva, perché non soltanto non impedisce i prossimi disastri e le relative conseguenze, ma in realtà garantisce loro un avvenire. La politica pacifista e il solo concentrarsi sugli aspetti militari armati del confronto e della conseguente violenza fisica in realtà nuoce, poiché causa la paralisi politica nella gente. La condizione per impedire questa corsa al terrore e questa ondata di esplosioni, distruzioni e omicidi di massa che hanno in serbo per noi è l'intervento della gente in Europa, in America, Medio Oriente e nel cosiddetto Terzo Mondo nei reali processi politici dietro questi eventi. Una partecipazione basata su un ordine del giorno attivo e positivo. Se questo accade, il futuro non dovrà essere per forza cupo. È necessario far emergere questi fatti e correnti politiche ora coperte da propaganda bellica. Quindi, era appunto uno scritto profetico di un quarto di secolo fa, e chiaramente quello che lui analizzava, appunto la tendenza pacifista di quel comunque movimento di massa che a un certo punto si manifestò anche insomma nelle nostre strade qui in Italia, e l'esito appunto era già scritto, appunto perché l'essenza di quell'atteggiamento lì era un atteggiamento di procrastinare le decisioni a data da destinarsi, e nel frattempo quelli invece che hanno le idee chiare, vanno a testa bassa, hanno realizzato i loro intenti distruttivi, eccetera. Distruttivi, ricordiamolo ancora una volta, soprattutto contro gli sfruttati, contro i lavoratori, contro le persone insomma più i lavoratori e lavoratrici e le oppresse, insomma quelle persone che si trovano sempre a sottostare all'obbedienza, allo sfruttamento di chi appunto non ha scrupoli, insomma, o ha altre si determina in altro modo verso l'umanità. Quindi per adesso concludere, ma nel frattempo magari do il tempo alla regia di mettermi un pezzo che è quello che appunto quello dei Lud, che era il brano Tutti i giorni, e che era appunto, c'era questo verso che avevamo messo nel messaggio appunto di promozione della puntata di oggi, sulle coscienze nel metto, l'eroe oggi non indossa divisa ma prosegue a mano armata in senso contrario, nella direzione delle bandiere, nell'inosservanza di tutti gli ordini, di tutti i giorni. Ed era appunto anche perché appunto succedono questi abbagli che sono, se vogliamo, li possiamo portare anche andiamo anche a quello che è successo nel 45 qua con la resistenza nostra, insomma, come sono andate a rotoli le cose, perché appunto ci si è attaccati alle bandiere, ci si è attaccati ai, si è sbagliato, insomma, si è equivocato, ecco, si è pensato di essere altro da quello che si era, si è pensato di fare i propri interessi, invece si faceva gli interessi di quelli che erano contro di noi e che ci facevano la guerra, erano già pronti a farci la guerra. No, tranquillamente andiamo con la musica, non importa, insomma, dai. Beh. Torno a dire il titolo. Tutti i giorni. Tutti i giorni. È tempo di partire. Quello, l'album del 2008. Sì, no, era per dire, non è. E nel frattempo cosa possiamo aggiungere, dai? No, poi nel blog magari metteremo, anzi nel blog metteremo sicuramente i riferimenti a questi, a questo, al centro di documentazione contro la guerra, che contiene, come dicevo prima, un bel po' di materiali tradotti. L'incontro si è tenuto il 21 giugno, Israele attacca l'Iran, appunto. Dalla vista. che sì, no, adesso veramente la lanciamo, appunto il brano è Tutti i giorni dall'album È tempo di partire dei Lud, appunto del 2008. Sì, sì, nel senso la mandiamo con calma. Che... no, sono le cose fatte appunto al volo queste. Sì, anch'io vi saluto e compito un po' di così concludere, diciamo, gli interventi in voce di questa Zardins Magnetics di giovedì 26 giugno in diretta da Radio Onde Furlane di Udine che ci ospita. Intanto volevo dire che il verso La diserzione delle bandiere, l'inosservanza di tutti gli ordini è un verso poetico da una poesia di Ingeborg Bachmann. E allora, si diceva prima di così concludere parlando un po' del carcere, cose comunque che si ricollegano con le riflessioni fatte stasera e sulla guerra, sul posizionamento, sulla coscienza delle oppresse e degli oppressi, delle sfruttate e degli sfruttati rispetto a quello che sta succedendo in Palestina, ma non solo. E allora volevo iniziare intanto leggendovi uno scritto di Luca, il compagno sardo che ora è agli arresti domiciliari, che appunto è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari a seguito di una manifestazione antimilitarista a Cagliari. E lui ci scrive dal suo carcere domiciliare: per me la resistenza palestinese non ha il solo merito di non demordere anche davanti alla più brutale delle oppressioni, svelandoci la forza di un popolo fiero che si oppone alle cause della sua miseria, ma anche quello di aver contagiato centinaia di migliaia di persone in tutto il pianeta, dando vita ad una mobilitazione internazionale dalle varie forme ed espressioni. Per chi come me è cresciuto nel nuovo millennio, gli esempi simili scarseggiano. A fianco una situazione geopolitica angosciante tra conflitti aperti, continui sconvolgimenti e l'opzione di una guerra nucleare dietro l'angolo. E così inizia a scricchiolare anche il nostro privilegio europeo, gradualmente fiaccato da un costo della vita sempre più proibitivo, mentre ci si consola con l'idea, sbiadita anch'essa, che tanto qui le bombe non arriveranno mai. Anche qui, nello Stato italiano, sotto il quale siamo costretti a vivere pur essendo sardi, Il quadro non è meno preoccupante. Se da un lato le condizioni della vita peggiorano e i nostri territori sono sempre più esposti alla predazione delle multinazionali, energetiche, di estrazione di materiali e così via, dall'altro le porte del carcere si aprono sempre più facilmente per chi decide di organizzarsi ed opporsi. La Sardegna ne è un esempio lampante: alta disoccupazione, stipendi da fame, scarsa assistenza sanitaria. Ad aumentare sono solo i progetti di estrattivismo energetico, gli aerei militari sulle nostre teste e le sezioni speciali nelle prigioni. E non dimentichiamoci che cosa significa, in un periodo di conflitto come quello che stiamo attraversando, vivere circondati da basi militari, non solo per l'intensificarsi delle attività, e questi ultimi giorni ne sono una conferma, ma anche per la consapevolezza di essere sempre un buon bersaglio. Io, che attualmente mi trovo agli arresti domiciliari per aver partecipato ad un corteo a Cagliari in solidarietà al popolo palestinese contro l'occupazione militare in Sardegna, sono accusato proprio di alcuni dei reati, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, per i quali il decreto sicurezza prevede un aumento delle pene. Una sorte che temo toccherà tanti e tante, una sorte inevitabile per chi decide di non tacere davanti ai soprusi e alle imposizioni. Mando un saluto a Tarek, con il quale ho orgogliosamente condiviso la piazza del 5 ottobre a Roma, ad Anan, Ali e Mansour, che sulla loro pelle pagano il prezzo del servilismo italiano nei confronti dello Stato di Israele, e a tutti i giovani e le giovani che in giro per il mondo rischiano la propria libertà per la libertà del popolo palestinese e per una vita diversa. E un abbraccio fraterno a Paolo Todde, rinchiuso nel carcere di Uta, Cagliari, in sciopero della fame dall'8 maggio per protestare contro le condizioni detentive. Sempre ai Nanti, Sardegna libera, Palestina libera. Casteddu, 23 giugno 2025, Luca. Sì, ci tenevo a leggere questa lettera, importante. Tra l'altro Luca è stato anche nostro, è venuto anche qui a Udine, insomma, un po' di anni fa, a presentare un importante lavoro contro il militarismo. E mi ricollego, partendo da questa lettera di Luca, per fare un brevissimo commento sul corteo che si è svolto sabato scorso, 21 giugno, qua a Udine, corteo contro appunto la legge sulla sicurezza, la militarizzazione della società in generale, in solidarietà con la Palestina, contro il sistema di guerra interna ed esterna. E come abbiamo un po' anticipato così l'altra settimana, il corteo intenzionalmente partiva dalla periferia della città, cioè praticamente dal piazzale antistante il CAS cittadino, e poi ha toccato, insomma, a parte appunto le strade appunto periferiche della città, ha toccato il carcere, perché abbiamo pensato che questi qui erano due punti sensibili, importanti da coinvolgere, e non limitandosi a fare appunto una passeggiata, diciamo, in centro tra la gente che fa le vasche, ma cercando di andare un po' al cuore dei luoghi dove appunto vengono rinchiusi e vengono puniti le oppresse e gli oppressi, le sfruttate e gli sfruttati. Allora, come si dice anche con uno slogan, gli oppressi lo sanno da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare, e anche in questo caso qui, anche se nel nostro piccolo, nel senso che potete immaginare che anche chi non è di Udine e chi non ha partecipato, che i numeri non si trattava di migliaia di persone in corteo, però è stato un corteo significativo perché appunto molto sentito dai partecipanti, e tra i partecipanti ci sono state tantissime persone razzializzate, come si usa dire ora, migranti che appunto sono costretti a stare al CAS, ma anche persone che si sono aggregate lungo il percorso. E un'altra cosa che ha colpito me personalmente, durante il percorso molta gente dalle finestre, dagli appartamenti, insomma dalle case, e ci salutava in maniera partecipe, cioè erano dei nostri, anche se e molte di queste persone che erano dei nostri proprio sono persone razzializzate, quindi presumibilmente comunque non sono persone della borghesia, sono persone anzi che sono qua e devono per sopravvivere, insomma, devono accettare anche non solo di vendere la propria forza lavoro, ma anche di svendere la propria forza lavoro, come succede sempre più spesso a proletari e proletari. E questo, insomma, è stata queste cose, insomma, sono state importanti. Poi c'è stato una calda risposta anche dal carcere, e quindi diciamo sì, è stata una cosa significativa e coraggiosa all'interno della città di Udine. Per contro va detto che c'è stato uno spiegamento di forze della repressione veramente impressionante. Sì, sappiamo che agli sbirri piace lavorare, insomma, non vedono l'ora, sono tutti contenti di lavorare, però veramente hanno dato il meglio di loro. E c'era veramente una cosa mostruosa, tipo 10 auto solamente delle vigili, come si chiamano, dei vigili urbani. C'erano 10 auto solo dei vigili urbani, non due camionette del Celere, tutti gli altri sbirri nelle auto, la Digos in grande numero. Insomma, veramente una roba che ti fa capire la pressione, insomma, che queste forze del disordine, anzi queste forze dell'ordine autoritario e distruttivo mettono in campo per dissuadere da ogni tipo di manifestazione di ripresa di possesso della strada, insomma. E alla faccia comunque di tutto questo spiegamento, le cose sono andate bene e c'è stato anche un certo così entusiasmo, diciamo, nell'iniziativa. Volevo poi parlare stasera, ma non dico ogni volta, dico così, ne parlerò la prossima settimana, alcuni approfondimenti su delle analisi sul carcere, diciamo sulle sezioni femminili del carcere, e prendendo spunto da un testo che è appena uscito, insomma un testo importante, che è una serie di testimonianze di donne anarchiche prevalentemente, che appunto hanno vissuto il carcere diciamo dal 2020, scusate, a oggi, quindi per periodi più o meno lunghi. Ci sono persone, donne che hanno vissuto anche, insomma, hanno fatto dentro e fuori parecchie volte, ma comunque è un'analisi un po' delle varie sezioni femminili, con un occhio particolare alle sezioni di alta sicurezza. È interessante, ma appunto sì, lo affronteremo magari la prossima volta. Però volevo dire un'altra cosa, anche un'altra notizia che riguarda sempre quello che si diceva prima, l'apparato repressivo, il fatto di la negazione, cioè il fatto che l'ingranaggio, diciamo, sociopolitico in cui viviamo tende proprio alla negazione di qualsiasi forma di resistenza. Un fatto che è successo all'avvocato Rossi Albertini, e cioè lui praticamente è stato segnalato, c'è stata una segnalazione all'ordine degli avvocati considerandolo, diciamo, non adeguato, cioè considerando un suo comportamento non adeguato, cioè per il fatto che ha salutato Alfredo Cospito in 41 bis dopo un colloquio, dandogli la mano e dandogli due baci sulle guance, quindi cercando un contatto, salutandolo, cercando un contatto fisico con Alfredo. Questo fatto appunto ha fatto scattare una sorta di richiamo, insomma una segnalazione all'ordine degli avvocati, affinché l'ordine degli avvocati prendesse provvedimenti, no? E sì, anche questa roba qua secondo me non è una roba indifferente. Rossi Albertini, che è anche l'avvocato, beh, ricordiamo, di tantissimi compagni, e nonché anche di Anan, naturalmente non si fa, insomma, intimidire, e ha avuto anche manifestazioni di solidarietà, insomma, nel suo ambito, diciamo. Ma anche questa roba qua è significativa, perché anche appunto parlando di regimi di tortura come è il 41 bis, questa negazione e questa deprivazione si allarga, no? Si estende anche al discorso dell'avvocato, anche alla possibilità dell'avvocato di avere una relazione umana e non solo sì, professionale, diciamo, con il suo assistito. Allora, come introduzione a questo discorso che vi dicevo del carcere femminile, vi leggo solo una paginetta sul prelievo del DNA, cioè sulla resistenza di una compagna al prelievo del DNA. E, allora, questa compagna è stata in realtà poche settimane in alta sicurezza 3 nel 2020, ma appunto in queste poche settimane ha avuto questa esperienza. In Italia il prelievo di DNA avviene all'uscita dal carcere, previa autorizzazione del giudice, ma questo l'ho imparato successivamente, grazie alle nozioni giuridiche della mia compagna di sventura. Ne avevamo parlato di questa eventualità durante le ore d'aria, 2 al giorno, perché eravamo in isolamento Covid e ci rifiutavamo di fare i tamponi per uscire dalla quarantena. E avevamo deciso di non darglielo il DNA volontariamente. Ricordo che durante un'iniziativa risalente a qualche anno prima, anno in cui avevano iniziato a prelevare il DNA, mi chiedevo che senso avesse opporsi fisicamente per qualcosa che con la forza muscolare e numerica avrebbero comunque preso. Ingenua arroganza la mia. Quel giorno capii, era il rifiuto di concedere al nemico qualcosa senza lottare, era il rifiuto a sottomettersi. Non nascondo che è stato l'unico momento in cui ho avuto davvero paura. Paura per la mia incolumità fisica. Non sono una persona che si pone sul piano dello scontro fisico. A botte facevo solo da bambina, poi ho smesso. Forse anche questo è un riflesso della cultura sessista. Sapevo di essere letteralmente nelle loro mani. Erano 5 servi dello Stato intorno a me. Un uomo armadio, alto almeno 1,80 m, e una della sezione, la più alta e robusta. Più 2 responsabili della sezione femminile e l'ispettore. Mentre mi venivano lette le disposizioni di legge secondo cui il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente, l'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito, bla bla bla, il mio cervello si è disconnesso. Non sentivo più nulla, pensavo solo che potevano pure riempirmi di botte. Quante volte lo hanno fatto adducendo i più svariati pretesti? Ho avuto paura, ma quando mi hanno chiesto se prestavo il mio consenso, ho rifiutato. Non voglio sembrare una spavalda, dicono che non c'è coraggio senza paura e la mia forza la trovo sempre nella mia bellissima idea di libertà. In un secondo ho pensato a tutte le donne e gli uomini che hanno lottato per l'anarchia, talvolta perdendo la vita, altri rinchiusi per decenni a marcire nelle patrie galere. Ed io potevo anche accettare quel piccolo scontro in cui ero certa di perdere, ma senza regalare nulla. In un primo momento la mia è stata una sorta di disobbedienza civile. Beh, già mi tenevano i 2 soggetti armati, uno per braccio. Non è che avesse molte possibilità. Mi hanno dovuta trascinare a peso morto perché io mi rifiutavo di camminare in una stanza e mettermi seduta, sollevandomi e spingendomi su una poltrona tipo dentista. Qui ho serrato forte la mascella e chiuso la bocca perché non entrasse il tampone. Avevo almeno 4 grosse mani in faccia che cercavano in tutti i modi di farmi aprire la cavità orale, altre 4 che mi bloccavano gli avambracci, 2 sulla sinistra e 2 sulla destra, e 2 ginocchia che puntellavano le mie cosce per evitare che mi muovessi. Poi una mano mi ha chiuso il naso. Ho resistito finché ho potuto, stringendo i denti e respirando lateralmente dalle guance, ma anche lì sono arrivate 2 mani a stringermi il volto e il tampone che spingevano forte su tutte le mucose. Sentivo il sapore metallico e farraginoso del sangue, mi è parso durasse tutta un'eternità, ma probabilmente in tempi civilizzati saranno stati una decina di minuti. Al termine avevo solo le gengive sanguinanti, per il resto ero intatta. Ecco, e quindi concludiamo appunto questo appuntamento di Zardins Magnetics con questa testimonianza di resistenza, e questa testimonianza è, sì, poi dopo diremo di un'iniziativa di questo fine settimana, questa testimonianza è tratta appunto dal libro Carte, Forbici, Sassi, Sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. Si tratta di un'autoproduzione di quest'anno appunto, e boh, ne parleremo ancora. Comunque, se vi interessa, potete richiederla a forbici@riseup.net. Ecco, solo per ricordare in corner, questa domenica 29 giugno è prevista una festa, anzi scusate, una giornata di solidarietà alla Palestina a qui, città Udine città, in via Brescia 3, Circolo Arci Nuovi Orizzonti. Ecco, è ricavato uno spazio a cura dell'assemblea No Leonardo. In regione c'è chi fabbrica morte, due parole su Leonardo S.P.A. alle 21 di domenica 29 giugno. L'assemblea No Leonardo è una realtà di collettivi individualità dell'Isontino, del Friuli e di Trieste, nata per contestare la presenza di uno stabilimento di droni da combattimento a Ronchi, Gorizia, storico insediamento dell'industria della difesa dello Stato italiano, già IRI Finmeccanica, oggi Leonardo. Questo intervento fa parte di una serie di incontri per convergere su una manifestazione partecipata a fine estate contro l'industria degli armamenti e le sue responsabilità, cercando di mettere in luce le principali implicazioni sulle varie collaborazioni di enti locali, università, fondazioni. Sarà presente un banchetto informativo, appunto questo è dal pomeriggio il banchetto. Si conclude così, è la locandina che trovate sull'Instagram, Comitato per la Palestina Udine, per una critica radicale al processo di arruolamento totale della società. Allora, Circolo Arci Nuovi Orizzonti in via Brescia 3, Udine, domenica 29 giugno ci troverete. Sono costretto così a sfumare in up and dead, siamo tiratissimi con i minutaggi e sì, con la trasmissione che è in conclusione. Ricordo che la trasmissione è Tardis Magnetics ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30, trasmettiamo da Radio Onde Furlane qui a Udine, oggi come sempre in diretta, oggi 26 giugno 2025, ricordo i nostri contatti. Chi volesse scriverci tramite posta elettronica deve scrivere a liberetutti@autistiche.org oppure scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle scorse settimane, può riascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi appuntamento al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani, venerdì 27 giugno, sulle due web radio alle ore 11 del mattino su Radio Eustachio. E poi chi ci, anche se proprio non ha nulla a che fare, vuole riascoltarci sperando che diciamo qualcosa di differente, sulla web radio Radiazione dalle ore 17 sempre domani venerdì. Ciao a tutti, al prossimo giovedì, vi lascio con Napandet.